Io sarò velocissimo in quanto ci saranno due interventi, no? E così come avrebbe potuto leggere sulla locandina e su tutti i messaggi che abbiamo mandato, la prima parte tratterà, come recita il titolo, della collaborazione Italia-Israele tra le rispettive università e i centri di ricerca, col fine di analizzare il modello israeliano, inteso come la migliore sinergia tra ricerca, apparato militare e ricaduta con il civile, tanto che si può affermare che Israele è un esercito con un popolo. I rapporti tra le rispettive industrie e eserciti qualificano ulteriormente la collaborazione tra i due Stati. Nella seconda parte, i rapporti tra Italia e Israele e le missioni militari in Libano e nel Golfo di Aden, compreso il recente invio di carabinieri al valico di Rafah, al confine con la striscia di Gaza, verranno presi in considerazione e descritti. Verranno inoltre presi in considerazione tutti i rapporti economici che quelli politici con le potenze più reazionarie della regione, al fine di svelare il ruolo dell'Italia. Di pochi giorni fa l'accordo con l'Arabia Saudita per 10 miliardi di dollari. Non la faccio più lunga di questo, mi sembra abbastanza, e lascio la parola al Daniele che inizia a spiegarci il titolo. Sì, buonasera a tutte e a tutti. Ringrazio. Prendiamo in mano. Si sente? Sì. Ringrazio per l'accoglienza, per gli organizzatori dell'incontro e per la partecipazione. Sono contento di presentare questo, non è la prima presentazione, presenteremo fra un mese circa anche in Liguria queste osservazioni sul, come ha detto Marco, sul modello israeliano, sulla collaborazione universitaria tra Italia e Israele, che non è una semplice elencazione, la faremo anche nelle collaborazioni che in questi anni hanno avuto ed hanno le università italiane e israeliane. Sono molte e diverse, sono profonde, d'altronde anche sono balzate all'onore delle cronache, diciamo, in tutti questi mesi. Ma il problema è che bisogna chiedersi il perché Israele negli ultimi 30 anni, da paese di circa 9 milioni di abitanti, è andato progressivamente aumentando la quota del numero di abitanti di Israele, è riuscita ad imporsi nel panorama internazionale come il paese high tech, cioè come uno dei paesi più avanzati, o meglio, probabilmente, forse, anzi sicuramente, il paese più all'avanguardia del mondo digitale e del mondo informatico. E questo è interessante chiedere, sono interessante anche sviluppare il perché è riuscita in questa operazione. Tanto vero che Israele si pone oggi al vertice di questo mondo digitale e di come questo mondo digitale è stato inteso, non come avanzata sociale, ma è stato inteso in un modo particolare, perché il protagonista, come vedremo, di questo mondo digitale, di questo mondo dell'avanguardia, non è stato l'industria in se stessa o i centri di ricerca dell'università, ma è stato un protagonista assoluto, l'esercito, non solo come fornitore o come diretto cliente, così come avviene nel resto del mondo, in particolare in Europa, cioè non come il Leonardo della situazione, come cliente o come fornitore nello stesso tempo, ma proprio anche come attore principale, come motore del cambiamento informatico. Tanto vero, come ha permesso Marco, si diceva sino a 10 anni fa che Israele era un popolo con un esercito, questo per la sua storia particolare che è sempre stata costellata sin dalla sua fondazione da infinite guerre, quindi la guerra era il mezzo ed è ancora oggi il mezzo per affermarsi come entità statale, ma oggi possiamo affermare il contrario, cioè che è un esercito con un popolo, cioè la società dove l'esercito rappresenta il cuore sociale, il cuore economico, il cuore ideologico della stessa nazione. Quindi bisogna capire esattamente cos'è che è successo in Israele negli ultimi 30 anni, come mai si è avuto questa evoluzione, come mai l'esercito è al centro della società. E questo ci aiuta anche a spiegare l'evoluzione tecnocratica di Israele, di come si è fermato nel panorama internazionale e di come la guerra è al centro della società israeliana e di come questa logica della guerra è l'unica logica che ha guidato Israele e che guida Israele nella sua guerra imperialista. Quindi l'osservazione del modello israeliano però ci pone anche in una condizione privilegiata, cioè quello che attraverso questa osservazione, questa modificazione che si è avuta del modello israeliano, ci permette anche una cosa particolare, di osservare come il modello liberista su scala internazionale e anche su scala nazionale, raffrontando le nostre esperienze nazionali, si sta evolvendo, perché è un po' un modello, un benchmark verso cui sta tendendo tutto il modello capitalista mondiale. Arriviamo quindi al punto a vedere questa trasformazione enorme che la società israeliana ha messo in atto da 30 anni a questa parte. Premetto, sono delle cause interne e delle cause internazionali, delle cause esterne. Sul territorio di Israele si sono sviluppate di dismisura delle trasformazioni industriali enormi. Sono sviluppate quelle che sono le industrie dell'high-tech, Microsoft, Apple, Amazon, Alibaba, è il terzo paese al mondo per capacità innovativa. Si produce il 12% del PIL e il 43% dell'export derivano dall'industria informatica, dall'industria dell'high-tech. Uso parole semplici per capirci. Il 4,25% del PIL è investito direttamente, della quota più alta, anche più alta degli Stati Uniti, direttamente nell'innovazione. Il 15,3% del PIL e il 54% dell'export deriva proprio dall'industria chiamano informatica, tanto per capirci. Sono stati fatti investimenti nell'innovazione per 110 miliardi di dollari, praticamente in proporzione all'entità di Israele, che ricordiamo un paese di 9 milioni di abitanti, di più di quanto sono stati fatti negli Stati Uniti. Però, premetto una cosa, poi lo vedremo nel dettaglio, il fattore decisivo per questa enorme trasformazione non è il fattore finanziario, cioè di investimenti di capitali, ma è un fattore umano. Quale fattore umano? Il fattore umano ci ricollega a ciò che è successo nell'89, cioè non quello che è successo lì, ma che è successo a 4.000 km di distanza, cioè l'implosione dell'Unione Sovietica. Cosa c'entra? L'implosione del muro di Berlino e poi a seguito, pochi anni dopo, dell'Unione Sovietica, ha liberato forze enormi in Unione Sovietica, soprattutto intellettuali, forze cosiddette di qualità, come dicono gli analisti, che hanno permesso una grandissima migrazione dall'Unione Sovietica verso Israele. Cioè erano ebrei. Ebrei, per la verità, si dice poco ebrei, poco ebrei. Non sono stati tanto ad indagare gli israeliani, erano molto più interessati alla qualità di questi cervelli russi e di quanto fosse la loro fede ebraica, che sono emigrati, vedremo quanto in numero spaventoso, verso Israele. E questi hanno formato quel tessuto connettivo che ha permesso alla società israeliana di fare quel salto enorme verso questa industrializzazione moderna, modernissima, informatica. Poi daremo nel dettaglio la composizione proprio tecnica sociale. Tanto vero che questo le ha portate ad avere una spesa dell'istruzione, fatto che Israele ha immediatamente capito l'importanza di questo e ha immediatamente organizzato lo Stato per tradurlo in un fattore positivo, cioè incentrando questo capitale umano, traducendolo in una spesa produttiva, cioè investendo moltissimo sull'istruzione. Tanto vero che ha investito la cifra più alta che gli stati attuali hanno investito sull'istruzione quasi il 10% sul PIL. Pensate che la cifra sull'istruzione veramente importante nel mondo occidentale è considerato sul 5%. Loro hanno investito quasi il doppio. Però il perno di questo successo non solo è derivato da un fattore impensabile, unico nel mondo occidentale, cioè derivato dall'esercito. L'esercito è il vero successo della trasformazione della società israeliana. Sapete che l'esercito in Israele si ha prima delle università, dura 5 anni, 3 anni per le femmine, ma cosa succede? Succede che le unità più scelte, e l'unità più scelta tra le unità scelte è l'unità 8200, non è un'unità combattente, non va a Gaza. L'unità 8200, non a caso, è un'unità informatica, è un'unità digitale. Seleziona le menti più importanti. Ma dove fa la selezione l'unità 8200? Il militare lo si fa dopo l'esame di maturità, cioè a 18 anni, il militare, dopo si fa l'università. Ma l'unità 8200 seleziona gli elementi migliori ad anni 16, cioè si incarica di andare negli istituti secondari al secondo anno, cioè al compimento del 15° anno, su test propri seleziona direttamente gli allievi e le allieve più capaci. Fa lo screening, al 18° anno di età gli fa la proposta di entrare in unità 8200, che ripeto non è unità combattente, ma un'unità informatica, dove li preparerà per la durata del servizio militare, non in combattimento, ma dal punto di vista informatico. Tra parentesi, una volta acquisito il diploma, varrà come diploma di ingegnere informatico, sia per Israele sia per gli Stati Uniti. Quindi apprende una carriera di sicuro successo anche in ambito civile. Quindi l'esercito si incarica direttamente di fare la selezione per l'apparato civile. Ecco, questo è importante. Le menti migliori per l'apparato civile sono in mano all'esercito. Quindi non stupisce se la società israeliana, la società votata alla selezione tecnocratica forzata. Israele è quindi il primo paese che conta, cioè il primo paese al mondo che conta il maggior numero di ingegneri pro capite. Sono 8.250 ogni milione di abitanti, è secondo solo agli Stati Uniti per il numero di società quotate in borsa Nasdaq, che è l'indice di titoli tecnologici alla borsa americana. Gli investimenti alla ricerca sono stimolati dallo strettissimo rapporto che hanno con gli Stati Uniti. Sapete cos'è la Silicon Valley, cioè il centro che si ritiene il centro mondiale dell'industria elettronica. Bene, la tanto decantata Silicon Valley ogni autunno si reca in Israele, dove c'è la mostra, diciamo, la fiera delle società, delle start-up, cioè di quelle che partono, le società innovative israeliane, dell'high tech, dell'informatica. Vede quali sono le più interessanti dal punto di vista tecnico, le prende, le capitalizza, le porta negli Stati Uniti e le fa lavorare. Quindi fa shopping direttamente, la Silicon Valley, tanto decantata Silicon Valley, va a fare shopping direttamente in Israele. Quindi nell'ultimo decennio il settore dell'high tech è cresciuto a dismisura, impiegando circa 310.000 persone. E si tratta di una cifra enorme, considerando, ripeto, il valore assai ridotto di abitanti di Israele, che fanno circa 9 milioni di persone. Abbiamo detto del capitale umano che proveniva dall'ex Unione Sovietica. Beh, questi sono i numeri che sono stati dati. Sono immigrati. La grande migrazione dell'Unione Sovietica, che si chiama Ilaya, cioè l'ascesa verso Israele, sulla cui fedeltà diciamo religiosa, ci sono sempre dei grandi dubbi, ha portato nell'arco di 10 anni circa 1 milione di immigrati, circa il 20% della popolazione israeliana dell'epoca. Risultato che oggi il russo è la terza lingua che viene parlata in Israele dopo l'ebraico e dopo l'arabo. Nel 2019 il 73% degli immigrati proveniva quindi dai paesi dell'ex Unione Sovietica, cioè delle ex repubbliche sovietiche. Ha cambiato quindi la composizione sociale di Israele moltissimo, tanto vero che secondo i dati del Ministero dell'Assorbimento dell'Immigrazione Israeliana, nel periodo 89-2009 sono stati 110.000 il numero degli ingegneri locali provenienti dall'Unione Sovietica. Inoltre Israele ha accolto più di 80.000 tecnici, 35.000 insegnanti, 16.000 scienziati, 16.000, 40.000 tra medici ed infermieri, oltre 60.000 lavoratori industriali qualificati. Ma soprattutto è andato ad infoltire il rango degli specialisti informatici delle forze armate. Apro qui e chiudo qui una parentesi, anche se non c'entra con l'aspetto informatico, per dire che il numero esorbitante di coloni, quei coloni fanatici religiosi che stanno colonizzando e massacrando i palestinesi in Cisgiordania, che sarà la prossima Gaza di questi mesi, in gran parte sono formati da persone che vengono dall'Unione Sovietica. Quindi questa è la trasformazione enorme che ha subito Israele, che ha subito per via di questa mutazione finanziaria, per questa mutazione tecnica e per questa mutazione sociale, che ha avuto un combinato tremendo che ha permesso questa trasformazione di cui, ripeto, l'esercito ne è rimasto il perno. E quindi è facile immaginare anche purtroppo una risposta del perché c'è stata una guerra infinita in questi 70 anni di storia israeliana, ma perché soprattutto in questi anni è una guerra che si è trasformata in un vero e proprio genocidio, perché è diventata una professione il genocidio, perché è una carriera tecnocratica in cui la scienza ha preso la mano, in cui ha disegnato la carriera di moltissime persone, cioè è diventata una via professionale, non è più diventato un modo strategico di imporre una via politica, ma è diventata una vera e propria via professionale. Per cui l'esercito è una carriera civile, è una carriera che mi permette, una volta fatto il servizio militare, di fare poi un servizio civile di tutto rispetto. Israele è al primo posto al mondo quindi per numero di start-up, cioè di attività nuove che si avviano. Ci sono più di 30.000 unicorni. Cosa sono gli unicorni? Si definiscono unicorni quelle società che hanno, attenzione, un valore di più di $1 miliardo. $1 miliardo è un numero impressionante. E quindi sono secondo dopo gli Stati Uniti. Ripeto ancora, in un paese in cui ci sono 9 milioni di abitanti. È un numero enorme, cioè l'Europa non vanta 30 unicorni in se stesso, e quindi è un paese in cui rientra nei primissimi 12 per reddito pro capite mondiale, e sono presenti più di 380 centri di ricerca di multinazionali. Ecco, le multinazionali, i centri più ambiti di ricerca di multinazionali dopo gli Stati Uniti è Israele. Ma Israele significa, lo ripeto ancora per l'ennesima volta, il centro di ricerca significa il centro di ricerca, come vedremo adesso poi, parlando in specifico dell'università, diventa il centro di ricerca militare, perché le università sono in mano, essendo la ricerca in mano, sono in mano all'esercito, cioè ai militari. Quindi il paese che ha in mano, lo ripeto ancora, la più alta percentuale di investimento in ricerca e sviluppo sul prodotto interno lordo. In questo quadro, quindi, se la ricerca è in mano esercito e se la ricerca quindi vuol dire università, è chiaro che qualsiasi collaborazione con qualsiasi paese vuol dire collaborazione prima o poi di investimento militare. E quindi le collaborazioni con l'Italia, oggi vi risparmio le collaborazioni industriali, ma credetemi, sono un'infinità le collaborazioni industriali. Oggi non è argomento di oggi, ma lo dico come lo dico in tanti incontri che facciamo di questo tipo. Se addirittura l'AM sapete che cos'è, no? La 2A. Se addirittura la 2A di Brescia, che poi non è Stellantis, no? Cioè l'ex Fiat, ma la 2A di Brescia, il centro di ricerca della 2A di Brescia, il laboratorio del centro di ricerca della 2A di Brescia, a sede dell'Università di Tel Aviv, beh, mi sembra veramente un dato incredibile, un dato veramente incredibile, tanto per dire come il polo di attrazione di Israele è così forte per cui la 2A di Brescia ha necessità di fare ricerca a Tel Aviv. E così moltissime aziende italiane hanno i centri di ricerca direttamente in Israele. Adesso, anche se sarà una cosa un po' tediosa, ma mi sembra utile proprio andare ad elencare quelle che sono le università che hanno rapporti italiani con quelli israeliani, che cosa fanno. Questi sono rapporti che nel corso di questi anni hanno ottenuto le università italiane con quelle israeliane. L'Israel Institute of Technology, Technion, accordi con l'Università degli Studi di Ferrara, la Sapienza di Roma, Torino, l'Università di Torino, Roma 3, Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino, e sono all'avanguardia nella ricerca dei sistemi d'arma più distruttivi utilizzati dall'esercito sionista e di ricerca cui lo Stato italiano ha collaborato attivamente, collabora attraverso l'esercito, l'IDF, cioè l'esercito sionista. L'Università di Tel Aviv collabora con l'Università degli Studi di Brescia, Ca' Foscari di Venezia, Catania, il Politecnico di Milano, l'Università di Napoli Orientale, la Sapienza di Roma, l'Università di Torino, l'Università di Genova. L'Università di Tel Aviv, nell'ultimo bando delle UE per il finanziamento della ricerca, ha firmato contratti per 117 milioni di euro. Tra i progetti finanziati c'è il GeoCradle, cioè un progetto di osservazione della Terra delle regioni dei Balcani, del Medio Oriente e del Nord Africa. L'Università di Haifa collabora con l'Università degli Studi di Bologna, di Ferrara, la Federico II di Napoli, l'Orientale di Napoli, la Cattolica di Milano, l'Università Padova di Trento. Come l'altra università del Sacro Cuore israeliana ha offerto assistenza speciale a tutti gli studenti israeliani che si sono arruolati nei corsi degli ultimi 10 anni nelle operazioni di attacco nella striscia di Gaza. Basta pensare che poter accedere al dormitorio, ecco questo è interessante, il campus universitario è necessario aver svolto il servizio militare. Questa è la dimostrazione di come sia stretto proprio il rapporto tra università e sistema militare. E questo sono specializzati nella sperimentazione di sistemi di comando, sorveglianza, comunicazione, tesi a rafforzare il sistema aeronautico militare israeliano. L'Università di Haifa e l'Università ha rapporti di collaborazione con l'Istituto Trentino di Cultura e il Centro di Ricerca della Provincia Autonoma di Trento. Hanno firmato una convenzione a partire già dal 2003 per la collaborazione nel settore delle nuove tecnologie dell'intelligenza artificiale. L'Università Bar Ilan ha accordo con l'Università Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, l'Università di Catania, di Firenze, di Udine, del Piemonte Orientale, l'Università di Pisa, con la Sapienza di Roma, la Sapienza di Ca' Foscari di Venezia e del centro di formazione dei gruppi dirigenti politici più avanzati dell'esercito israeliano. Riceve finanziamenti diretti dal Ministero della Difesa israeliano, così come l'Università di Tel Aviv ha ospitato seminari per la futura cooperazione tra Italia e Israele nel programma Horizon 2020. Lo vedremo fra poco. I programmi Horizon sono programmi, più avanzati programmi, di finanziamento della comunità europea. Israele non fa parte della comunità europea, però è inserita incredibilmente nei programmi Horizon, cioè nei programmi di finanziamento della comunità europea. Cioè, questa è una cosa che non ha nessun senso logico, che Israele possa ricevere finanziamenti da parte della comunità europea. Poi li vedremo quali sono, e sono parecchi. L'Università Ben Gurion ha progetti in corso con l'Università degli Studi di Bologna, di Genova, dell'Orientale di Napoli, di Pavia, del Politecnico delle Marche, di Roma 3, di Torino, di Trieste e di Udine. Anche se sono noioso, però mi pare utile andarli a specificare tutti. Ed è specializzata nella ricerca in robotica e nanotecnologie. Vanta accordi con decine di industrie ed enti privati di ricerca in campo bellico, in particolare con l'Università di Genova già dal 2018, vanta un progetto di ricerca per sviluppare dispositivi bionici e robot umanoidi. Voi sapete che il futuro della fanteria non sta nell'impiego degli uomini, ma sta nell'impiego dei robot umanoidi. Questo, tra parentesi, l'Italia ha già messo a pratica di mare in campo una sperimentazione di 2 anni fa della futura fanteria che si avvale di questi robot umanoidi. L'Accademia Koji di Tel Aviv, IAFA, ha accordi con l'Università di Modena e di Reggio Emilia, che fa seguito a quelli già sottoscritti con Ben Gurion dell'Università del Negev, con la Gordon Academic College and Education dell'Hebrew Università di Gerusalemme. La Interdisciplinary Center Erzial, accordi di collaborazione con l'Università degli Studi di Roma 3 e la LUIS, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma. Ma veniamo ora ai finanziamenti Horizon. Come vi dicevo, un'aberrazione totale sono i finanziamenti Horizon 2020, che sono la nuova frontiera dei finanziamenti europei. La collaborazione sono finanziamenti europei rivolti alle università per la ricerca industriale, ciò che poi vengono riversati nell'industria. Ripeto, Israele non fa parte della comunità europea, ma i finanziamenti europei che vengono rivolti all'industria europea, quindi anche all'industria italiana, vengono poi riversati da questi in rapporti di collaborazione con l'industria ebraica. Finanziamento Red Hat, sono finanziamenti ricevuti da Horizon, quindi dalla comunità europea, per 3 miliardi e 24 milioni di euro. Attraverso la consociata IBM Red Hat sta producendo OpenShift, cioè un internet operativo che mira ad aumentare l'efficacia e la letalità dell'esercito israeliano. Red Hat ha espresso più volte il proprio orgoglio nell'aiutare l'esercito italiano, quindi è una collaborazione industriale tra l'IBM e l'IBM Italia e l'IBM Israele. Finanziamento di 2 miliardi e 46 milioni di euro della SITET LDT, che fornisce un sistema di analisi di droni alla polizia israeliana. La polizia israeliana non è una polizia normale, non è la nostra polizia. Sì, questa però fa un passo successivo insieme a quella che era la polizia, o quella che è la polizia sudafricana, nel riconoscimento facciale e nelle pressioni di piazza. La Israel Aerospace Industry ha finanziamento ricevuto per 2 miliardi e 15 milioni di euro. L'intelligenza artificiale, opera intelligenza artificiale, è un produttore di armamenti militari, veicoli e tecnologie militari, interamente di proprietà dello Stato israeliano. Tra paesi, questi sono quelli che mettono in atto quei, li avete visti alla televisione, di quegli enormi bulldozer che sono responsabili delle distruzioni delle case, dei manufatti palestinesi. La Techno Institute, il finanziamento Horizon europeo ricevuto per 33 milioni di euro, invece è proprio un finanziamento che si giostra metà tra civile e militare. L'Università di Tel Aviv questo lo riceve direttamente, sempre da Orzio, di 33 milioni di euro, un ruolo importante nel ecco, questo invece forma direttamente la dottrina della sicurezza di Israele, quindi è mirato alle forze armate, un finanziamento diciamo ideologico, mirato alla dottrina della sicurezza. L'Università Ebraica di Gerusalemme ha un finanziamento Horizon di 29,29 milioni di euro, anche questo è un'ala accademica diciamo di formazione ideologica delle forze armate. Quindi questo è quanto in sintesi delle collaborazioni diciamo più importanti. Ma la cosa più importante ancora è che, come ho detto all'inizio, è che Israele è un prototipo di dove sta andando la società neoliberista nella formazione della scuola. Perché l'Italia si sta, noi in diversi incontri, dibattiti sulla scuola l'abbiamo sottolineato, sta facendo entrare a larghi passi le aziende nella formazione scolastica, nei programmi scolastici, che vengono sempre meno dettati dai ministeri e vengono sempre più avviati verso un'aziendalizzazione. Ecco, Israele questa aziendalizzazione l'ha già superata, sta facendo entrare direttamente l'esercito, ed è questo il messaggio che ci dà Israele, cioè di una formazione scolastica che ha due caratteristiche feroci: un'enorme selezione scolastica e una formazione scolastica che è indirizzata direttamente dallo Stato, in quel caso indirizzata all'esercito per uno scopo ben preciso, cioè per uno scopo coloniale. E qua abbiamo un segnale, è una via che ci viene indicata da Israele, nel nostro caso è far entrare sempre più le aziende per essere sempre la scuola un segmento produttivo, un segnale sempre più seguire, quindi una selezione sempre più feroce ai fini della produzione. Grazie. Bene, senza intervalli e senza pubblicità passiamo alla seconda parte. Dopo questa impressionante messa di dati sulla potenza informatica di Israele, una piccola nota di ottimismo, perché effettivamente anche gli occhi e le orecchie elettroniche dell'esercito israeliano sono stati superati il 7 ottobre e anche in altre occasioni, il che significa che la strapotenza tecnocratica poi diventa sempre un avversario che si può e si deve combattere. Ciò detto, io parlerò dei rapporti tra Italia e Israele, che Daniele ha ben delineato sul piano universitario, dicendo che vengono questi rapporti in fondo dall'esercito israeliano, dalla classe dominante che passa attraverso l'esercito, ma ciò vale anche per l'Italia e vedremo perché. I rapporti tra Italia e Israele fino agli anni Ottanta non erano molto buoni e anzi erano piuttosto diradati. La prima visita che un primo ministro israeliano fece in Italia è quella di Shimon Peres nell'86 o 85, quando incontrò Craxi a Roma, e si incontrarono e se ne dissero anche diverse, perché Craxi sostenne la necessità per Israele di aprire la via a uno Stato palestinese. Peres naturalmente lo mandò gentilmente a quel paese. E detto questo, già nell'82, se ben ricordate, l'Italia era entrata in Libano in diretta concorrenza con Israele, che il Libano aveva invaso con la guerra del 1982, che aveva portato l'esercito israeliano fino a Beirut, dopo aver praticamente messo in gravissime difficoltà i fedain e aver demolito una buona parte del Libano meridionale. Israele, oltre a questo, si era spinta a conquistare Beirut. L'Italia, ancor prima degli Stati Uniti, ancor prima della Francia, che era la sua diretta concorrente nel Mediterraneo e nel Libano, propose di costituire una forza cosiddetta multinazionale per la protezione dei fedain e per il loro esilio da Beirut. I bersaglieri sbarcarono a Beirut il 24 o il 26 agosto del 1982 in una situazione di estrema tensione con l'esercito israeliano che occupava il porto. La missione finì dopo 15 giorni con l'esilio dei combattenti palestinesi. Ne partirono 11.000 verso la Tunisia e altri paesi arabi. L'esercito israeliano, come sapete, prese possesso di Beirut e consentì, organizzò o comunque protesse la strage di Sabra e Shatila, che avvenne esattamente una settimana dopo che la forza multinazionale, virgolette, di pace, italo, francese e statunitense, si era ritirata. Quell'orrendo massacro era prevedibile e previsto e dette alle tre potenze, Italia in testa in quel momento, governo Spadolini, dette all'Italia la possibilità di costituire il secondo contingente della forza multinazionale di pace al di fuori dell'ONU, che prese posizione attorno a Beirut, cioè prima sul mare, con addirittura la più importante nave che la Marina militare avesse e con una protezione militare dal mare, sbarcarono di nuovo i bersaglieri e presero posizione nei quartieri sud di Beirut, nei quartieri sciiti, dove avevano dei rapporti ben precisi, da un lato con il partito Amal, il partito sciita maggioritario in quella parte della capitale del Libano, e anche con un compito ben preciso, quello di fare la protezione, in realtà la polizia, la gendarmeria, attorno ai campi profughi palestinesi, in cui la gioventù palestinese, rimasta senza alcuna protezione armata da parte dei fedain, non aveva altra possibilità che quella di organizzarsi e di combattere. L'esercito italiano restò a Beirut per 2 anni praticamente, fino al 6 marzo del 1984, e rimase in concorrenza con gli israeliani, che abbandonarono poi Beirut nell'83, e soprattutto con l'esercito americano, i marines americani e i legionari francesi. Se ricordate, dato che la nostra purtroppo età media qui presente è notevole, se ricordate ci furono i famosi 3 attentati in realtà, contro i marines americani e i legionari francesi, che persero centinaia di uomini, mentre il contingente italiano non ebbe che, durante la sua permanenza, una perdita, un bersagliere, se non sbaglio. E si ritirò da Beirut dopo aver lasciato un ospedale da campo al partito Amal. Quindi ottimi rapporti con alcune forze politiche libanesi e pessimi o comunque cattivi rapporti con Israele, che il Libano aveva invaso, e con l'Italia che aveva preso posizione quasi apertamente anti-israeliana sul piano militare. Allora, perché allora, negli anni 80 e quantomeno fino agli anni 90, l'Italia si caratterizzava per la cosiddetta politica di equidistanza di andreottiana memoria, cioè siamo equidistanti da Israele e dai paesi arabi. In realtà l'Italia era ben vicina ai paesi arabi perché aveva interessi petroliferi e necessità strategiche di avere petrolio e gas da paesi arabi. Israele poi non era un mercato importante per l'Italia perché era un paese con una limitata popolazione e un'economia non troppo ricettiva ai consumi e alle esportazioni italiane. Per cui negli anni 80 e in parte negli anni 90 questa era la situazione. La situazione cambia completamente alla fine degli anni 90 e con questo secolo. Perché? Perché l'Italia, fedele alleata americana, anche se vuole avere una posizione propria nel Mediterraneo, in Africa e nel Medio Oriente, l'Italia nel campo internazionale segue gli americani in Afghanistan e in Iraq. Afghanistan 2001, Iraq 2003. Ma soprattutto l'Italia negli anni 2000, sotto la preminenza americana, comincia ad avere rapporti stabili con Israele proprio per quello che ha detto Daniele, cioè lo sviluppo tecnologico, informatico, militare della produzione israeliana interessa molto all'Italia. Interessa all'Italia perché sta cambiando lo strumento militare italiano, deve modernizzarsi con quello che Israele può dare e inoltre l'intervento nel Medio Oriente sotto l'egida americana ha un rapporto diretto con i paesi arabi, quelli che chiamo i petroparassiti, che sono interessati a restare sotto lo scudo americano per proteggere i loro enormi investimenti dei petrodollari e così via. Quindi per l'Italia c'è una via che può portare a fare affari con Israele, con i paesi arabi e anche mettere insieme petrolio, tecnologia e rapporti militari. Questa politica italiana viene lanciata dal governo D'Alema del 2000, ma soprattutto prende uno sviluppo notevolissimo già lanciato dal governo D'Alema del 2000 con un accordo, un preaccordo in quell'anno con il memorandum di accordo generale per la cooperazione con Israele sul piano militare, che è firmato dal governo Berlusconi nel 2003, il primo giugno 2003. Devo leggere questo punto del memorandum perché è importante. È un memorandum in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa. L'articolo 2 dice che entrambe le parti convengono di stabilire rapporti reciproci tra i ministeri della difesa e le loro forze armate al fine di stabilire, scusate ma la stanchezza degli occhi, al fine di stabilire una cooperazione, scusate, convengono di stabilire questi rapporti reciproci tra ministro e stati maggiori al fine di stabilire una cooperazione nel settore della difesa, il che consentirà loro di aumentare la capacità di difesa. La cooperazione riguarderà i seguenti settori: industria della difesa e politica di approvvigionamento di di competenza dei ministeri della difesa, importazione, esportazione, transito di materiali militari di difesa, cioè non solo li esportiamo tra di noi, ma se vengono da altri paesi consentiamo che vadano verso Israele o vengano verso l'Italia. Operazioni umanitarie, organizzazione delle forze armate, struttura e materiali di reparti militari e gestione del personale, formazione e addestramento, questione ambientali e inquinamento provocati da strutture militari. Poi c'è da ridere perché pensano allo sport militare. La cooperazione militare non si limiterà ai settori sopra menzionati, le parti cercheranno nuovi settori di cooperazione di interesse reciproco. E qui Daniele ci ha dato tutti i dati. Bene, da allora, dal 2003, c'è stato un via vai di armi prodotte in Israele e vendute all'Italia, soprattutto dei satelliti, per il controllo e le comunicazioni dell'esercito, quello che oggi l'Italia ha come satelliti, ne ha 3 o 4 importanti, e che si parla di sostituire con il sistema di Musk, il sistema satellitare basso. Comunque quei satelliti sono stati sviluppati anche da Israele. Poi, in secondo luogo, l'Italia ha venduto almeno 30 aermacchi, che sono i migliori addestratori, velivoli di addestramento militare, ma servono anche a bombardamento, a Israele, e ha ottenuto in cambio 2 aerei Gulfstream, che sono zeppi di apparati elettronici israeliani e che sono posizionati, questi apparecchi, al nord dell'Italia e anche verso il Mediterraneo, il secondo. In particolare, in questi mesi, in questi anni di guerra all'Ucraina, questi aerei servono a controllare praticamente metà della superficie italiana, un aereo, e individuare chi entra nello spazio aereo, cosa fa e cosa intende fare e come contrastarlo. Sono stati usati anche per controllare lo spazio aereo mediterraneo verso il Mar Nero. Detto questo, a parte queste armi importantissime, Leonardo Agusta sta vendendo gli elicotteri da bombardamento a Israele, come li ha venduti peraltro, anzi li fa produrre anche in Turchia. E poi stanno collaborando per la costruzione di veicoli blindati. Israele in cambio ha venduto moltissimi missili anticarro all'esercito italiano. Quindi tra l'esercito italiano e l'esercito israeliano, due entità che si guardavano in cagnesco per motivi politici nel secolo scorso, oggi stanno a coltivare i loro rapporti in modo sistematico, e non lo fanno da soli, perché sopra questa o accanto a questa cooperazione abbiamo la presenza ingombrante, decisiva, degli Stati Uniti, che partecipano in bene o in male a parecchi dei programmi militari italiani e americani e israeliani, o non consentono all'Italia di sviluppare con Israele certi programmi se questi riguardano anche armi usate dagli Stati Uniti e progettate dagli Stati Uniti. Un nome per tutti, gli F-35. Gli aerei che hanno bombardato Gaza e che oggi bombardano anche delle città della Cisgiordania non sono solo i famosi F-16 americani, ma sono anche gli F-35, che sono stati venduti dagli Stati Uniti all'Italia, a altri paesi europei e a Israele, e che questi paesi, acquisendo questi aerei, collaborano alla loro produzione e quindi partecipano a diversi livelli a segreti militari americani in cooperazione tra di loro e con gli americani. Per produrre un F-35 ci vogliono tante fabbriche, tanti ingegneri e tanti brevetti che vengono spartiti se lo Stato Maggiore americano decide che quel paese merita di partecipare a quel progetto. Detto questo, dietro alla cooperazione militare, con la cooperazione militare si sviluppano anche tutti gli centri di ricerca delle industrie italiane in Israele. Sono presenti con i propri centri di ricerca Edison, Enel, Pizzarotti no, vende di solito, poi soprattutto ST Microelectronics, Leonardo, che è particolarmente presente in Israele e ha rapporti organici con le società che producono difese antiaeree o armi portate sugli aerei. Quindi sono completamente cambiati i rapporti economici tra Israele e l'Italia. E poi c'è, e ne dovremmo parlare a parte, ma non possiamo farlo adesso, la grande questione del gas del Mediterraneo orientale. Israele ha con l'Egitto, in teoria Gaza, Palestina, il Libano e Cipro, delle zone economiche esclusive nel Mediterraneo, di fronte a, tra Cipro, Libano e Israele e Gaza e l'Egitto, in cui l'Eni e la Total francese hanno trovato enormi giacimenti di gas. E si tratta non solo di sfruttare questo gas, cosa che stanno facendo nei giacimenti israeliani e egiziani, ma soprattutto di creare dal mare aperto all'Europa o all'Egitto dei gasdotti. Si tratta di investimenti notevolissimi di importanza strategica che possono portare a cooperazione o guerra. E sulla questione del gas intervengono l'Italia, la Francia, Israele, che hanno costituito con l'Egitto e con Cipro una federazione, un ente per lo sfruttamento del gas del Mediterraneo orientale, in cui vorrebbe addirittura entrare anche la Turchia, che per ora è tenuta fuori. La posizione dell'Italia è fondamentale perché? Perché l'Italia, oltre ad aver scovato il gas con l'Eni, può costruire i gasdotti con la Snam, cosa che altri paesi non hanno come capacità tecnica a questo livello. La questione del gas è importante perché se Israele conquista Gaza, toglie, espropria quella quota di zona teoricamente esclusiva che dovrebbe essere per il non esistente adesso Stato della Palestina, toglie la quota di gas che potrebbe essere sfruttata e venduta da uno Stato palestinese. Israele, proprio per questo, durante la guerra di Gaza, l'ultima, ha proposto all'Eni di perforare la zona esclusiva di mare che sarebbe di spettanza dei palestinesi. L'Eni per ora ha rifiutato, ma è in rapporti organici con Israele per questioni più importanti ancora, cioè la costruzione di un gasdotto dalla zona del Mediterraneo orientale verso la Grecia per vendere questo gas israeliano e egiziano soprattutto in Europa. E la cosiddetto Italia Hub dal gas del Mediterraneo, dei programmi della nostra della Presidente del Consiglio. Quindi, come vedete, sono rapporti completamente cambiati. Questi rapporti completamente cambiati tra Israele e l'Italia si sono riflessi in Libano. Nell'82-84 e negli anni 90 e anche successivamente, l'Italia in Libano era in concorrenza con Israele. Nel 2006 l'Italia ritorna in Libano con UNIFIL e siamo ancora lì, sono ancora lì i soldati italiani, con una posizione importante perché hanno avuto il comando di UNIFIL per anni. Ma UNIFIL, la presenza italiana in UNIFIL, il comando italiano di UNIFIL, l'Italia è presente da 18 anni e in 18 anni ha espresso il comandante di UNIFIL per 11 anni e il prossimo comandante sarà di nuovo italiano. Bene, UNIFIL, che è la forza cosiddetta di interposizione al confine libanese tra Israele e Libano, tra Israele e Hezbollah, cos'è stata? Prima di tutto è stata accettata da Israele. Nell'82-84 Israele non accettava la presenza dei bersaglieri. Nel 2006 l'ha accettata. Perché? Perché ci sono i rapporti economici importantissimi e militari a monte. Secondo, UNIFIL in 18 anni è riuscita, bene o male, a restare sul terreno e ha consentito due cose. Uno, ha seguito i movimenti di Hezbollah. Due, ha seguito i movimenti dell'esercito israeliano. UNIFIL nella parte italiana ha sviluppato in particolare la conoscenza del terreno del Libano sud con la cosiddetta operazione CIMIC, cooperazione civile militare. I soldati italiani si recano in ogni villaggio o cittadina del sud del Libano, nella loro zona di pertinenza, 300 km quadrati, e creano un campetto di calcio, portano le maglie dell'Inter, danno assistenza medica e così facendo si inseriscono nel territorio. Ogni mese si riunisce sotto il comando dell'UNIFIL un comitato con il comandante dell'UNIFIL, alti ufficiali israeliani e alti ufficiali libanesi. In questo modo, in quella sede, eventuali conflitti o piccole scaramucce possono essere gestite. Ma cosa dà l'Italia in cambio a Israele? Dà in cambio a Israele la conoscenza specifica dei movimenti di Hezbollah. Cioè, una forza militare non può stare su un terreno senza poter rispondere ad attacchi né da parte israeliana né da parte di Hezbollah quando Hezbollah attaccava, se non ha una moneta di scambio. E la moneta di scambio tra Israele e Italia è proprio questa. Io ti garantisco il confine al nord da incidenti di medio livello e ti dico esattamente cosa sta facendo il tuo avversario. In parte lo fa l'Italia, perché siamo levantini, anche, lo faceva, anche con i libanesi, con cui da 40 anni ha dei rapporti politici, prima con il partito Hamas e poi con il partito di Hezbollah. Ricordiamoci che D'Alema, quando era ministro degli esteri, andò nel Libano del Sud nel 2006 e incontrò i rappresentanti di Hezbollah. Ora, questa garanzia economica, militare e operativa che l'Italia dà ad Israele, la vuol dare anche a Gaza, a Israele a Gaza. Da quando è iniziato il massacro, Non è passato mese che i nostri governanti di estrema destra non abbiano dimostrato di voler partire a Gaza. Già nel dicembre del 2023 si parlava di un intervento italiano di pace e difatti è stata schierata la nave Vulcano con un ospedale da campo per assistenza ai bambini palestinesi. Come al solito si usano i bambini per essere presenti militarmente. Crosetto ha così detto: l'Italia, storicamente percepita come interlocutore affidabile, vuole essere presente se ci sarà una forza di interposizione. Il 22 gennaio del 2024 però viene decisa la missione Aspides, o Aspides, non ho capito, che vuol dire scudo, nel Mar Rosso, e partono, che è comandata tatticamente, operativamente, da un comandante italiano, e sono schierate le più potenti moderne navi antimissile italiane contro gli Houthi che attaccavano il traffico che passava attraverso il Mar Rosso. L'Italia ha il comando operativo di questa missione, non ha potuto assumere una posizione apertamente offensiva come hanno fatto gli Stati Uniti con il gruppo della portaerei che hanno schierato per attaccare direttamente lo Yemen, però ha una posizione da un anno lì presente e garantisce chi? Non solo il traffico di petroliere verso il Mediterraneo, ma il traffico navale verso Israele, che ha un porto nel Mar Rosso, il porto di Eilat. Poi il 28 gennaio Tajani, il ministro degli esteri, annuncia la ripresa della missione di addestramento delle forze di polizia dell'autorità nazionale palestinese. I carabinieri sono conosciuti mondialmente per questo e addirittura sono gli stessi americani, Blinken, che fa il giro per cercare, diciamo così, di mettere d'accordo gli israeliani a stare, a non massacrare, che dice: abbiamo bisogno dell'Italia in un'eventuale forza di interposizione. Il 9 marzo viene a Roma Netanyahu. Chi lo riceve all'aeroporto? Crosetto, il ministro della difesa. Poi lo portano al forum economico Israele-Italia, dove 50 aziende presentano dei rapporti di affari. Poi, adesso è notizia di questi giorni, che il generale israeliano che comanda il comando operativo di controllo dei territori, come lo chiamano loro, il COGAT israeliano, il generale Gassan Alian, è stato a Roma allo Stato Maggiore nel quadro dei rapporti organici che ha con lo Stato Maggiore italiano in forza dell'accordo del 2003, che funziona benissimo per l'Italia e Israele. E adesso si parla espressamente di un intervento come forza di interposizione. Nel frattempo, due elicotteri italiani e un C-130 sono schierati in Giordania e portano ogni giorno a Gaza delle vettovaglie col permesso di Israele. Finisco. Tutto ciò di cui abbiamo parlato oggi, rapporti economici, rapporti militari, rapporti politici, dimostrano il ruolo dell'Italia come bastione, come in questo momento alleato aperto di Israele nell'opera che Israele ha svolto di massacro, non solo perché sono state usate delle armi italiane, ma anche perché con lo schieramento a nord e a sud di Israele di soldati italiani, si vuole garantire la cauzione di Israele, dell'Italia, alla politica svolta da Israele. Le forze di interposizione non sono mai forze di pace, è inutile discutere di questo. Le forze di interposizione, che siano decise dall'ONU, in realtà dalle grandi potenze e dalle medie potenze, o che siano direttamente organizzate da potenze al di fuori dell'ONU, sono forze di polizia militare o forze di appoggio a una delle parti. L'Italia ha troppi interessi con Israele e in questo momento li ha anche con tutti gli stati arabi che hanno abbandonato o comunque che hanno negato o si sono schierati contro il popolo palestinese, praticamente. Mentre facciamo accordi con Israele, andiamo a vendere armi all'Arabia Saudita con il permesso degli americani e con l'avallo di Israele, che ha interesse a creare un fronte con i cosiddetti arabi moderati, che sono in realtà soltanto degli sfruttatori parassiti, dei renditieri che hanno fatto del Medio Oriente tutta una terra in cui il potere è da loro esercitato, ma la realtà è che esercitano questo potere sfruttando una massa crescente di operai schiavizzati. L'abbiamo visto con i campionati mondiali del Qatar, immaginiamo cosa succede nella costruzione di una nuova città in Arabia Saudita, dove gli operai che lavorano sono portati alla morte e allo sfinimento. Quindi abbiamo un fronte reazionario di cui l'Italia sta facendo parte con un ruolo protagonista. Tocca a noi qui in Italia denunciarlo, denunciare non soltanto i rapporti con le università, ma il ruolo attivo dell'esercito italiano, che vuole essere presente nel Medio Oriente e lo è in tutti i modi, sia con i propri uomini a terra, sia con la propria flotta, per partecipare in questo momento alla nuova spartizione di quelle regioni sfortunatissime. Finisco e vi dico che mentre avevamo schierato la flotta davanti allo Yemen, la cosiddetta missione Aspides, è partita anche e si è svolta per 6 mesi la missione nell'Indo-Pacifico del gruppo di combattimento della portaerei Cavour, è così chiamato, che ha visto lo schieramento addirittura nell'estremo oriente di questo gruppo di navi, la portaerei Cavour e 2 o 3 fregate cacciatorpediniere, che schierano gli aerei F-35. Lo Stato Maggiore italiano ha dato, la Marina italiana in particolare, ha dato grande risalto al fatto che l'Italia è uno dei pochissimi paesi che può schierare fuori dai propri confini e anche lontanissimo un gruppo navale con una portaerei da cui possono partire aerei da bombardamento come gli F-35B e degli elicotteri d'attacco. Si tratta del tentativo dello Stato italiano, dello Stato autoritario italiano, dell'esercito che si sta trasformando, delle forze armate che si stanno trasformando, di trasformarsi in potenza militare di un certo livello. Quindi quello che abbiamo visto schierato nell'estremo oriente ha per propria casa e per proprio terreno di elezione, di attacco ad altri territori, il Mediterraneo e l'Africa. Siamo in questa situazione. Non basta più l'antimilitarismo, bisogna prendere posizione e denuncia quotidiana contro questo andazzo che ci porta direttamente in guerra e a fianco delle potenze più reazionarie. Ho finito. Grazie. Prima di verificare se ci sono domande, c'è un'ultima considerazione che farà Daniele. Sì, scusate, un'ultima considerazione al di là dei rapporti tra università, Italia e Israele. Una cosa che non viene mai citata a livello mediatico, carta scritta o radiofonica o televisiva, viene solo citata nell'ambito di qualche incontro o conferenza, ma una cosa che ci può chiarire molto, moltissimo di quello che sta succedendo ora a Gaza. È il primo ministro israeliano, Netanyahu, non mi ricordo bene quando, circa 2 anni fa, ripropose in sede ONU, dette l'annuncio, ripropose un vecchio progetto israeliano del canale Ben Gurion. Che cos'è il canale Ben Gurion? Il canale Ben Gurion è un progetto presentato, nato negli anni 60, sì, negli anni 60, praticamente è questo, è uno scavo che parte da Haifa, quindi nord Israele, che inevitabilmente intercetta Gaza, che attraversa Israele, attraversa Negev e sfocia quindi nel Mar Rosso. Questo canale rappresenta, se avete visualizzate ora la cartina, taglia in due Israele, è praticamente concorrente diretto del canale di Suez. E che cos'è che ha? Israele lo vende come progetto concorrenziale a Suez perché dal punto di vista geologico attraverso un'area estremamente rocciosa, quindi non si insabbia, e concorrenziale ovviamente a Suez perché è parallelo, ovviamente è sotto controllo israeliano, quindi dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista militare, da molte più garanzie che Suez, ma soprattutto sconvolge dal punto di vista commerciale tutta l'area, cioè garantisce in mano israeliale quella quota di oltre il 50% del commercio mondiale che avviene attraverso il Mar Arabico. Ecco, questa è una delle ragioni forse che inducono anche a questa tabula rasa che è stata fatta a Gaza, quindi questo accanimento contro Gaza. E questo è un fatto che non viene tanto sottolineato, ma che credo che sia anche una delle ragioni fondamentali di questo feroce accanimento contro la striscia, di questa riproposizione non a caso di questo progetto, che è un progetto che era stato abbandonato sino dagli anni 60 in poi. Grazie. Bene, adesso sia chi è qui in presenza, eventualmente qualcuno online che vuol fare qualche domanda, si può partire. Chiaramente quelli in presenza devono venire qui al microfono. Solo una piccola osservazione rispetto a quanto ha detto l'ultimo relatore, che così veementemente si accaniva contro Ibn Saud, perché se noi facciamo i conti di quanti ne abbiamo uccisi, annegati, nel Mediterraneo, tra l'Africa e la Sicilia, oppure tra l'Albania e la Puglia, forse superiamo il numero dei morti che Ibn Saud ha causato per le Olimpiadi, senza contare poi tutti questi nostri immigrati, africani e non, che raccolgono le arance, che generosamente noi ospitiamo in bellissime villette di lusso. Degli immigrati e la questione del controllo militare dell'immigrazione. La questione degli immigrati è la questione del controllo militare dell'immigrazione. No, era solo per bilanciare con questa figura di Ibn Saud che è dipinto come un tiranno, mentre noi lo facciamo con la democrazia. Sono diversi sistemi, ma si equivalgono. Su questo siamo completamente d'accordo. Leggevo, mi pare l'altro ieri, la traduzione di un articolo di più 971 72 ecco, dove si sosteneva che l'enorme quantità di dati raccolti dall'esercito israeliano, di dati informatici, di dati legati al controllo e alle operazioni militari con l'uso di intelligenza artificiale, non essendoci in Israele dei server così potenti da poter raccogliere e gestire tutta questa enorme mole di informazioni, è stato stipulato da Israele, sono stati stipulati dei contratti con Microsoft e non mi ricordo adesso se anche con qualche altra high tech americana, e che Microsoft è diventata sostanzialmente, con questo diventa organica al, diciamo, al sistema di controllo israeliano. E se siete, se avete informazioni su questa, su queste cose, penso che sarebbe interessante. Grazie comunque per gli interventi molto interessanti. Ci informiamo, ma anche ci informeremo ulteriormente, mi sto informando anche su eventuali rapporti con la Cina, perché caratteristica della Cina non avere preclusioni politiche su eventuali clienti. Sai, il detto cinese ripreso dai vecchi confuciani: noi non ci badiamo se il gatto è bianco o è nero, è importante che capi il topo, cioè gli affari non li facciamo con tutti purché siano affari, quindi a parte loro non hanno preclusioni, ma ciò non hanno preclusioni neppure gli israeliani nel fare affari. Infatti una delle ragioni per cui, questo l'aveva detto anche in un altro, in più di un altro incontro, se mette da un punto di vista propriamente politico, Israele è ultradivisivo, no? Infatti c'è l'immagine, una delle immagini di qualche mese fa, che quando parlò al palazzo di vetro Netanyahu un numero molto consistente lasciarono l'aula, no? Però se vai a vedere con quanti commercialmente intrattengono i rapporti con Israele è un numero enorme. Se poi vai a vedere il tipo di rapporti, che tipo di rapporti intrattengono con Israele, sono tutti rapporti di polizia, di riconoscimento facciale, tutti rapporti che sono veramente inquietanti perché servono, no? Quindi anche la Cina intrattiene rapporti con Israele, intrattiene profondi rapporti commerciali con Israele. Quindi mi riservo di andare a vedere se si riesce a capire che tipi di rapporti bilaterali hanno, quindi non solo con gli americani, con Microsoft, ma anche con altri, perché credo che ne scopriremo delle cose molto interessanti, perché questo campo qua commerciale Israele lo intrattiene a 360 gradi con tutti, perché gli rende, ma rende soprattutto agli altri, perché questa è la forza, diciamo, di Israele, è la forza, la sua forza tecnologica, la sua forza politica è quella di offrire, questo è il nocciolo del problema, e di offrire a tutti questo suo grado tecnologico, scientifico, ma che si traduce in una sola parola, la capacità del controllo, è la società del controllo. Quando io ho detto che è la società del futuro, cioè sta offrendo un modello per il futuro politico, e non è perché è una società di destra o di sinistra, sta offrendo proprio un modello del futuro, cioè la società che sta offrendo agli altri stati l'immagine di che cos'è lo stato futuro, lo stato tecnocratico, lo stato della selezione scolastica, lo stato delle intelligenze migliori, la tecnocrazia e la società del controllo assoluto. E questo che è pericolosissimo, in questo che è estremamente pericoloso, cioè la società dell'assoluta selezione, la società dei migliori, e questo che è, sta in questo. Quindi sarebbe interessante vedere questo aspetto qua, e sarebbe interessante andare a vedere a 360 gradi con chi, con quali stati detiene questi rapporti, perché vedremo, e ne sono sicuro, che li detiene con tutti gli stati di tutti i colori, perché non solo per un problema economico, ma proprio per un problema di estensione del potere proprio degli stati, del potere in quanto tale, e è questo che è. Mi spiace anche sentire questi accenni mitologici, questa figura di Israele che incombe su tutti noi e che sarà la distruzione della nostra etica e del nostro futuro. E vorrei fare un po' da contrappeso, ebbene io non sia proprio la persona più adatta perché non sono esperta in merito, rispetto a quello che è il sistema cinese. Ora, se c'è qualcuno che lo sa più approfonditamente di me, il sistema cinese, che lo conosce, lo invito a venire, perché per quello che so io, questo sistema terribilmente descritto dal signor Gatti della selezione, io ricordo all'elementare che incubo, ecco, in Cina è una prassi, cioè non esiste che sia eletto o che vinca le elezioni o che arrivi al posto X e Y della piramide politica sociale qualcuno che sia figlio di X, Y o nipote di PZ. Esiste un sistema di merito che non è questa tremenda figura di selezione descritta da lei, è semplicemente un sistema per cui le persone, Xi Jinping è figlio di contadini, le persone che hanno cervello, che hanno capacità, che riescono a realizzare dei risultati a livello intellettuale, a livello sociale, a livello scolastico, vanno avanti E perché c'è proprio un organismo a livello statale che si occupa di monitorare il cammino dei cinesi, e per cui chi arriva in un certo posto è perché quella persona ha il profilo che meglio di chiunque altro può svolgere il compito richiesto da quella funzione, semplicemente, senza incubi. Sì, la ringrazio molto, però io sono anche di un'altra idea, che questo mi sta bene, che capacità possa svolgere determinati compiti, no? Io un anno e mezzo fa non mangiavo da solo, non camminavo, non muovevo gli arti inferiori e superiori. Persone con certa capacità mi hanno aiutato a rimettermi come sono oggi, altrimenti non mi sarei rimesso. Però sono anche dell'idea che chi ha meno capacità non deve essere abbandonato per la sua strada. Io non sono tanto sicuro, che non dico nella società cinese perché non ci sono mai stato, ma che in una società non lasci indietro chi non ha quelle capacità. Sono d'accordo con lei, ma ci sono anche quelli che non le hanno innate, queste capacità, che non devono essere lasciati indietro. E la vita non è fatta solo di queste capacità innate, è fatta di tante altre cose. E allora, appunto per questo mi riferisco, non mi riferisco solamente a una società che possa premiare solo chi per nascita sua ha le capacità, perché questo lo dice, perché chi aveva le capacità anche nella Francia pre-rivoluzionaria aveva una capacità per nascere. Vorrei dire una questione. Daniele ha esaltato o ha presentato la strapotenza tecnologica e israeliana, però andiamoci piano, perché Israele è una società in piena crisi, è uno Stato in piena crisi, e proprio ciò che ha permesso il grande sviluppo di Israele, presentato da Daniele, negli decenni che vanno dall'80 al 2020, oggi trova dei conflitti, perché abbiamo lo sviluppo di una presenza dei coloni che agitano la bandiera della religione per impadronirsi dei territori palestinesi, ce l'ha dato Dio, andiamo a prendere, andiamo ad uccidere. Ebbene, questi coloni, che ormai sono quasi 1 milione di persone, e non solo questi coloni, ma anche i religiosi all'interno del cosiddetto territorio israeliano precedente alla conquista della Cisgiordania, hanno un sistema di scuole religiose in cui si insegna l'ignoranza, ma proprio l'ignoranza. Invece di insegnare materie scientifiche, insegnano la Bibbia alla loro maniera. Non fanno il servizio militare e di conseguenza non vogliono fare il servizio militare, e di conseguenza la società israeliana è profondamente divisa al suo interno, il che non significa che questa divisione porti ai palestinesi dei vantaggi, perché fin quando questa divisione non verterà sulla fine della guerra permanente, sul massacro che nessuno affronta in questo momento in Israele, se non pochi gruppi politici o gruppi sociali, fino a quando non ci sarà una lotta di classe avanzata in Israele, la situazione di crisi politica e sociale resterà tale e potrà vedere anche il mantenimento del potere dell'estrema destra. Però non esaltiamo soltanto la tecnologia, gli investimenti di capitale che spesso dipendono anche dall'estero e quindi possono portare, in caso di mancati capitali dall'estero, a delle crisi profonde in Israele. E quindi da questo punto di vista un minimo, virgolette, se non di ottimismo, quantomeno di dubbio sulla strapotenza dei militari e dei governanti israeliani. Ecco, se c'era Roberto, mi pare che voleva intervenire, può intervenire. Intervenire. È stato chiesto nella chat se Daniele può dire quali sono le imprese high tech di alto valore, gli unicorni di Israele. E poi c'è l'intervento di Roberto. No, qui l'elenco al momento non è disponibile. Puoi fare intervenire Roberto? Certo, certo. Ma volevo fare una brevissima osservazione, visto gli interventi che ci sono stati. Mi scuso che non ho, sono riuscito a essere presente alla prima parte dell'incontro. Ho sentito, penso, quello... l'intervento di Ivo, la maggior parte. E, ecco, rispetto alla questione della Cina volevo intervenire. Ho mandato sulla chat un articolo proprio sui rapporti di affari di Cina e Israele, molto stretti, anche e molto in campo militare, oltre che il controllo di porti, eccetera, che mostra anche perché la Cina non si è minimamente sbilanciata, se non nel senso di cercare di indurre Hamas a trovare un accordo con i servitori di Israele dell'ANP. E, ecco, e poi rispetto a quella visione un po' idilliaca di una Cina quasi... meritocratica ed egualitaria, ci sono fior di studi su innanzitutto il livello di diseguaglianza sociale nella Cina è pari a quello degli Stati Uniti e superiore a quello italiano, ad esempio, nonché, che pure è fortemente aumentato, ma ci sono anche studi che mostrano come i figli di papà, cioè i figli dei burocrati di partito, hanno accumulato, grazie alle loro relazioni, le loro conoscenze, i favori del partito, hanno accumulato grandi ricchezze. Quindi sono c'è tutt'altro che la meritocrazia, cioè c'è un modo di un capitalismo, se vogliamo, ancora più familistico e clientelare, o almeno altrettanto come negli Stati Uniti, perché poi si sono creati miliardari in dollari nel giro di pochi anni attraverso le speculazioni favorite dall'apparato statale politico. Quindi, ecco, non facciamoci un'idea di una Cina che sarebbe qualcosa di progressivo che poi porta a forme di campismo, che proprio penso che se vogliamo avere una posizione di classe internazionalista dobbiamo rigettare. Scusate, non volevo solo ricordarvi una cosa, che qui sul banchetto è disponibile il opuscolo di tutto l'intervento che Daniele ha fatto prima relativo a rapporti tra università, centri di ricerca, la relazione che ha svolto prima. Qualcuno che fosse interessato è qua.